Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Gli unici risultati prevedibili, buongiorno a tutti, questo sarà il primo argomento, seguito da L'età del merito e da Barbieri, Cretisi e Collin, nonché, se c'è il tempo, non lo so, da Cavalieri in sella.